ore 8:44 di mercoledì 2 marzo 2005, registrazioni che si stanno un po' diradando, ma non perché in qualche modo intenda rallentare le operazioni in vista della famosa e temuta chiusura, quanto piuttosto perché molto spesso il tempo che si riesce a dedicare a queste cose è inversamente proporzionale rispetto ai picchi di lavoro, e provengo da un picco di lavoro. Comunque mi sento di ringraziare coloro i quali hanno espresso la volontà che io continui. Ecco, innanzitutto vorrei dire che anche nel momento in cui Pendolo Viri chiuderà, in ogni caso l'espressione stessa chiudere mi sembra un po' forte, e tutto sommato si tratta di una testimonianza che rimarrà lì appesa, almeno fino a quando Splinter lo vorrà, e sono convinto che continuerà a essere vista da qualcuno, anche se indifferita, anche se a ritroso, e magari qualcuno vorrà ancora lasciare dei commenti. Tutto sommato, ecco, è sbagliato secondo me pensare a un audioblog come qualcosa di paragonabile a una radio che a un certo punto, quando chiude, abbandona i suoi ascoltatori. No, un audioblog è qualcosa che appartiene evidentemente a una sfera molto intima, e ha un inizio e ha una fine. Quindi questo lo dico anche per chiarire esattamente che cosa intendo per interrompere Pendolo Deliri. E mentre ascolto l'ultimo album di Pat Metheny, che si intitola This Way Up, un album che, come ho avuto modo di discutere con il mio dirimpettaio d'ufficio, è poco commerciale, è un ascolto abbastanza impegnativo, però è veramente molto ben suonato, quindi un acquisto che consiglio. Mi vengono in mente un paio di importanti tematiche, ancora una volta ricondotte al famoso Becerume Pontino. Mi serve anche qui per chiarire un equivoco. Il Becerume non è qualcosa di tipicamente pontino. Il Becerume è ovunque, semmai in questa zona intorno alla via Pontina, in particolare nella zona di Pomezia, vi sono delle condizioni particolari per cui è facile vederlo, un po' come nell'area 51, dove alcune persone sono convinte di vedere ciò di cui si parla. Ci sono condizioni particolari che fanno sì che gli avvistamenti, falsi o veri che siano, si moltiplichino. E la stessa cosa accade a Pomezia. Ci sono condizioni particolari, lo dicevo. Indubbiamente la dipendenza, per esempio, delle persone dal traffico, dalle auto private, e il modo in cui sia facile, tutto sommato, tirar fuori il Becerume che è dentro ognuno di noi nel privato della propria autovettura, fa sì che vi siano dei luoghi deputati proprio all'esternazione del Becerume. Uno di questi è un famoso svincolo, che viene chiamato lo svincolo del Ghigno, e che è fondamentalmente la via d'accesso principale alla città, che però è una sorta di luogo dove si svolgono dei veri e propri duelli rusticani combattuti con l'unica arma di cui si ha a disposizione quando si cerca di avere la precedenza, di arrogarsi la precedenza, che è appunto il ghigno, la faccia cattiva, lo sguardo torvo da un finestrino all'altro, che poi puntualmente vince rispetto agli sguardi più timidi, agli sguardi meno aggressivi. E invito tutti a provare, perché è comunque un'esperienza che riconduce alla parte più primitiva di ciascuno di noi. Provenendo dalla via Pontina, in direzione Aprilia, quindi in direzione sud, si esce allo svincolo Pomezia Centro, quello che immette su via Roma, si sale su una sorta di rampa, e poi a quel punto c'è un incrocio dove sì, teoricamente il codice stradale prevederebbe delle precedenze di qualcuno rispetto a qualcun altro, ma è assolutamente lettera morta. E l'unico modo per combinare qualcosa, l'unico modo per poter proseguire è imporre con il proprio ghigno la propria personalità, il proprio ego. Chiaramente chi è destinato ad aspettare le ore sono fatalmente le vecchiette, sono fatalmente le persone che non hanno grande confidenza con il mezzo automobilistico, E però questo è un luogo dove la solidarietà proprio non alberga, cioè non esiste nessun... non ho mai assistito a scene, diciamo, di cavalleria, come alle volte invece succede nel resto dei luoghi che mi trovo a frequentare con la Xara dei Patriarchi.